Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Incontrai la splendida Nubenda una mattina assolata, e immediatamente colsi sul suo volto quelli che sono i segni della felicità, e quindi mi posi come imperativo categorico mettere in crisi quella felicità che riempiva lo scompartimento e mi infastidiva. Non mi aveva fatto nulla di male quella ragazza, ma sorrideva, era contenta, si scambiava telefonate entusiastiche con le sue amiche, con la sua mamma, col suo papà, con le maestranze che stavano restaurando l'appartamento in cui sarebbe andata a celebrare il suo nido d'amore con un suo fidanzato, probabilmente che conosceva da secoli, che chiamava continuamente, incessantemente, e si informava del viaggio e dove lei fosse e quanto mancava all'arrivo e chi c'era nello scompartimento con lei. Insomma, la vedevo già con un piede nella fossa e non potevo resistere alla tentazione di esternargli questa mia convinzione ferra e granitica. Ma sei uscito dalla famiglia? Sto uscendo. Per andare dove? Sto uscendo per andare a convivere finalmente con mio fidanzato. Cioè, per fare un'altra famiglia? Sì. Dalla padella alla brace? Esatto, da una famiglia all'altra, sì, sì. Vai a ricostruire il modello che ti lascia alle spalle, praticamente? Più o meno sì. Ma finora eravate fidanzati ognuno a casa sua? Sì, da parecchi anni. Ma siete giovanissimi. Abbiamo preso questa decisione finalmente. Quanti anni avete? Ma io ne ho 26 e lui ne ha 10 di più. 36? Sì. Lui è già un ometto. Lui è già un ometto, sì. Però se l'hai scelta giovane, non male. Hai capito, il furbo, eh? Sì, si è presa la pollastrella, figurati. Ormai lui è quasi un quarantenne, praticamente. Hai capito, sì. Cioè, ti accogli un uomo di una certa età, questo lo sai. Sì, sì, è il vecchiettino. Ma già lo chiami vecchiettino ancora prima di andare a convivere? No, dico apposta. Ma ha l'impressione di essere un ometto già maturo rispetto a te, oppure non? No, lui no. Anzi, è giovanile. Tante volte sembro io più mentalmente, no? Nei discorsi sembro più io, che ero la più grande tra i due. Ma fra un po' si dovrà tingere i capelli, lo sai questo? Se ti sente. Ma è così, purtroppo, per essere all'altezza di una moglie giovane. Sì. Senti, perché andate a vivere assieme? Perché comunque dopo diversi anni ormai che uno sta insieme. Quant'è che siete fidanzati? 6 anni più o meno. Una bella costanza. Sì. Beh, 6 anni sono fa... cresciuta con lui praticamente. Ma t'ha preso che eri bambina, scusa, avevi 16 anni? Sì. No, 16 no, ne avevo una ventina. Sì, eravate piccolini, eravate, dai. Sì, no, infatti sono cresciuta con lui alla fine. E i tuoi erano d'accordo, non dicevano ma questo è troppo grande per te? No, sì, all'inizio erano un po' resti, però per poco, perché poi lui è talmente un bravo ragazzo che si è fatto subito conoscere. Si è fatto amare anche dalla mamma. Sì. E qual è stata, diciamo, la formula che ha usato per accaparrarsi i favori anche del padre? Ma no, in realtà lui è di poche parole, è più nei fatti lui, quindi... Cioè va a aggiustare i lavandini, faceva le pulizie in casa, no, cosa fa? No, quello no. Come ha fatto a captare sai, comunque... Benevolenza. Dopo diverse cene che uno stava insieme, sai, discorsi, uno ha capito un po' la mentalità, la sua mentalità, e quindi mi hanno dato il loro benestare, insomma. Praticamente siete, ormai siete quasi sposati. Più o meno, sì. tanto valeva che vi sposavate a questo punto. Chissà che magari non accadrà. Ma quindi sarà un passaggio graduale, convivenza graduale, esatto, sì. Sì, è giusto, lo sai, con la convivenza cambia tutto. Lo so, è una cosa, lo so. Ahimè, purtroppo vedremo. Cioè, non ti voglio costringere a mettere le mani avanti a ripensarci, ma convivere una persona cambia radicalmente, anche se lo conosci da 6 anni, capito? Sì. Cominci, te lo trovi tutte le mattine vicino, e poi la fila al bagno, e poi cominci a sentire quei piccoli problemi fisici che uno nasconde e nella convivenza vengono fuori. Sì, no. Sei pronta a questo? Sì, dai. Quindi lo ami proprio. Faremo il test proprio generale per il passo successivo, poi. Vi state arredando l'appartamentino? Esatto, in questo momento sì. Beh, quella è una fase divertente, Insomma, quando hai a che fare con gli operai, insomma, però tutta la parte del comprare, arredare, sì. Beh, guarda che è un impegno equivalente a quello delle persone che si sposano, perché state ristrutturando una casa, mi sembra aver capito, esatto, sì, per viverci assieme. Quindi già affrontate la gestione difficile di maestranze in giro per casa. Sì, assolutamente sì, questa è già una bella prova, questa dei lavori, perché... Siete stati d'accordo su tutto? Locazione delle stanze, sì, colori, pavimenti? Sì, su quelle cose sì. Avete già preparato la cameretta? C'è pensato? La nostra sì. E l'altra cameretta? E quella c'è, poi vedremo. E quindi vedi, è un progetto serio, vedi, ti sto trascinando alla rivelazione estrema. Quindi praticamente andate a tutti gli effetti a costituire una coppia di fatto. Esatto, a tutti gli effetti, sì, che adesso se ne parla tanto, no? Sì, ma ti rendi conto, la differenza è veramente inesistente. Mi dici la differenza fra voi due persone che si sposano? Sì. Solo un problema di tipo giuridico alla fine, che esatto, sono un po' più tutelati. He was a sweet and tender hooligan, and he said that he never, never, never, never do it again, not until the next time. He was a sweet and tender hooligan, and he swore that he never, never, never, never, never do it again. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Mi faceva sorridere l'idea, nel mio colloquiare nello scompartimento con la nubenda, anzi la quasi nubenda, perché in realtà questa ragazza, per quanto ho capito, andava a instaurare una convivenza, una coppia di fatto, qualcosa di molto attuale, molto moderno. Quindi pensavo che fosse ormai svincolata dagli oneri, dalle mucillaggini familiari, dalle catene indissolubili delle tradizioni materne e paterne. Invece no, questa convivenza altro non era per lei che l'anticamera a un classico grasso matrimonio, quello con le zie infiocchettate, quello con la torta, quello con i lanci di confetti, quello con io sto con lo sposo, io sto con la sposa, bacio, bacio, bacio, viva la sposa, queste cose qua, che poi partono con l'automobile piena di barattoli, di festoni, di fiori colorati, di veli di tulle, e vanno a consumare la loro prima notte di nozze da persone che già convivono da decenni in qualche lontano albergo, in isola misteriosa che l'agenzia di viaggi ha procurato per coronare il sogno sociale di quella famiglia, di quella stirpe, di quella genia che deve poggiare sulle fragili spalle della quasi nubenda e del suo promesso quasi sposo. Il matrimonio lo vedo, a parte a livello giuridico, ma soprattutto per due persone che stanno insieme da diversi anni, come una sorta di festa, no? Quel giorno è una festa. Beh, farete un giorno che andate a vivere lì, farete una festa con gli amici. Certo, è ovvio. Ma lo sai cosa vi mancherà? Che alla fine vi chiederanno i genitori, sai, i parenti, le zie, i nonni, gli amici degli amici, quelli che vi hanno invitato al loro matrimonio. Cosa gli dice a quelli? Che gli dico? Ma ce l'avete questa tradizione familiare di andare lì? Sì, come no? Ti toccherà, ti diranno, ma adesso, quando vi sposate? Già te lo dicono. Già te lo dicono? Eh sì, una cosa per posta, gli dico. Quindi vogliono l'abito bianco, andare in chiesa. Sì, sono un po' tradizionalisti. Lo sai quale sarà l'assurdo? Che tu dovrai per forza farli contenti, se no non vivi più. Assolutamente sì. Sarai costretta a fare il corso di preparazione prematrimoniale quando già vivrai assieme a una persona. Assolutamente sì. E ci avrai un prete che ti fa delle lezioncine. Mi raccomando, ragazzi, bisogna arrivare al matrimonio candidi come colombe. O già vivete assieme da 6 anni. Hai capito? Ecco. E sarà tutta una presa in giro per far contente le zie. Esatto. La prova del vestito, pensa alla prova del vestito. Ecco, no, ne voglio, no, guarda, non ci voglio pensare. Però ci dovrai pensare. Già te l'hanno detto, sì. Dai. Eh sì, perché poi ho una nonna sarta. Figurati che sta già lì, non vede l'ora. Il suo parere è la prima. Quindi cosa. Diciamo, tu hanno accettato che voi iniziaste una vita di convivenza sub condicione che comunque dopo vi sposate. È così. Eh sì. Te l'hanno estorto proprio. Diciamo che adesso, insomma, ci dicono, ma quando tirate le somme? Ormai sono diversi anni, Ma insomma, sembra che lo state facendo in maniera egregia, no? Certo, dopo 6 anni che vi frequentate, è stupido andare a vivere assieme, sennò che senso ha? Certo. Vivere assieme è una bella esperienza, formativa, sì. È utile, ti provi. La vita è anche più facile, tutto sommato, perché ci si aiuta, certo. Indubbiamente. Ma dal punto di vista del lavoro, come state messi? Io, guarda, lui è un professionista di golf. Di golf, nel senso che gioca a golf? Gioca a golf, sì. È un lavoro, si guadagna, sì. È uno sportivo, sì. Qui va a fare le gare e lo pagano. Fa le gare e in base a come si classifica guadagna, insomma. Non è come per esempio il calcio, che firmano dei contratti e quello guadagnano. Nel golf, in base è un libero professionista. Come giochi, guadagni. Va bene. È un lavoro, sì. Diciamo, che ti permette di fare una vita dignitosa, lo fai bene, anzi, sì. Diventi anche ricco. Una bellissima vita, perché comunque vai in giro per il mondo. E nel frattempo tu che fai? Starei a casa a pulire i pavimenti? No, io ho aperto da poco un negozio di abbigliamento vintage. Ah, bello. Firmato, in conto vendita, sì. Quindi vi siete anche, dal punto di vista professionale, sistemati, ecco. Sì. È tutto adesso poi, perché il negozio l'ho aperto da un mese. Come sta andando? Bene. Una formula un po' particolare, perché non è il classico negozio di abbigliamento. Qui si fanno, insomma, degli affari, ecco, perché magari ci sono delle cose chiamate a dei prezzi, insomma, accessibili. Ecco, sono belle cose, vintage, ma... Belle cose. Non indietro di decenni, mi sembra. No, anche cose nuove, insomma, recenti. Sì. Ma diciamo, tu hai trovato dei buoni canali e riesci a vendere dei bei pezzi a dei prezzi buoni. Esatto, sì. Ma tu eri commerciante già o tu sei inventato? La mia famiglia, da parte di mia mamma. Cosa facevano? Sempre abbigliamento? Avevano un negozio di abbigliamento. Ah, ecco, loro. La nonna sarta, la mamma al negozio di abbigliamento. Quindi sì. Tu sei nel solco di una tradizione familiare. E poi invece dall'altra parte, famiglia di ristoratori. Mio papà e mia zia, quindi... Insomma, gente che lavora, pratica. Sì, abbastanza pratica, sì. Tu hai lavorato già da prima, lavoravi nella vita? No, io ho studiato e ho finito l'anno scorso di studiare all'università. Ti sei laureata? Sì, laureata in comunicazione e giornalismo, proprio tutt'altro canale. Che ti serve una mazza, naturalmente. Esatto. Per vendere i vestiti, no? No, non mi serve per vendere i vestiti. Sono quelle lauree che uno le prende così per socializzare. Sì, mi piaceva e ho iniziato studiando, insomma, quella materia, però poi mi sono resa conto che in maniera pratica non c'era niente e quindi ho aperto un'attività mia. Sono nel cuore una mazza da golf, può pensare a fare giornalista. Esatto. Comunque anch'io sono golfista, in tutto anche tu? Questo sì. Siamo conosciuti. Siete conosciuti quindi sul campo da golf? I campi da golf, sì. Lui era il tuo maestro? Il papà? Sì. Ah, ma vedi, che il padre, tipo, un giorno è apparso il figlio che portava le mazze e, e vi siete conosciuti. Esatto. Esattamente. E beh, adesso è un momento molto difficile perché i sogni sono belli, perché finché si accarezzano, poi quando uno li vive i sogni si rende conto che diventa realtà. Già. Vabbè, adesso tu avrai... Vediamo come va. Nella tua vita avrai due impegni, uno più gravoso dell'altro e uno conseguente all'altro. Il primo sarà quello di far contente le vecchie di famiglia, le nonne, le zie, e dovrete sposarvi, e sarà, sarà un incubo, perché vi riempiranno la casa di cose inutili, non saprete che farci, corsi, matrimoni, vestito da sposa, fatiche. Alla fine, fatiche, sì, una dietro l'altra. La vita. E il secondo, non vorrei manco dirtelo, ma devo dirtelo, sarà quando ti chiederanno il nipotino. E lì, sì, perché è una catena, poi una quando catena. Hai fatto un passo poi ti chiedono subito quello successivo. E tu dovresti, e poi ti chiederanno il fratellino, il nipotino poi. Certo, esatto. Non puoi lasciarlo solo. guarda, queste cose o le tagli in partenza, o proprio in partenza fuggi, vai via, ma tutta la vita vivi proprio col senso di colpa, perché i cuori spezzati, le mamme che piangono, i papà con la faccia triste, adesso vi stai presi questa bella gatta da pelare, lo farete volentieri, immagino. Eh già, per forza. Senti, quando lui viaggia per andare a fare le partite nei campi di golf, tu che fai? Io fino a un mese fa lo seguivo. E oggi starai dietro il banco a vendere vestiture? Oggi sì, io sono qua. E non ti farà venire pensieri terribili, pensarlo felice, corteggiato, lontano, vezzeggiato? Lui in questo momento sì, è fuori per una gara. Pensa. Però ci sono quei pensieri, dai. Quei pensieri o saranno il cemento della vostra unione o saranno il solco che si allargherà sempre di più, lo sai. Per forza, poi sicuramente lo seguirò ogni tanto quando... meno lavoro. Beh, quando arriveranno i bambini sarà molto difficile. Sì, stare a casa con loro. quello sì. Sei sempre di questa idea, quindi questa chiacchierata da stazione a stazione non ti ha fatto cambiare idea? No, sono ancora convinta. Così mi piaci, fortificata nei tuoi principi, convinta nelle tue scelte e ben disposta poi, centellinando le tue probabili cedimenti alla tua felicità, quelle che saranno le necessità sociali sulle quali non transigeranno i tuoi parenti, che in questo momento ti aiutano a mettere a posto la casuccia, a fare i lavori di restauro, a comprare i mobili, e in cambio vorranno l'abito bianco, i bambini per casa. In bocca al lupo, buon viaggio. Crepi. Ciao, cara. Ciao. Tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I am not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going anywhere. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. È scesa felice nel suono di violini d'amore, nello svolazzare di puttini innamorati, nel olezzo di fiori d'arancio, la quasi nubenda. E io, naturalmente, per definire ancor meglio quella che era la mia velenosa insinuazione sulla possibile fine e il tracollo della storia d'amore in un classico, tranquillo, logorante iter matrimoniale, mi sono messo a guardare in rete, sul mio tablet, quelli che sono i siti specializzati che vengono proprio in soccorso del logorio matrimoniale. E ce n'è uno in particolare che mi ha particolarmente colpito. Una sorta di sito di incontri fatto per fedifraghi. Il fedifrago dovrebbe iscriversi, quindi tracciarsi, dare le sue generalità, in qualche maniera segnarsi in un sito che solo per il fatto di lambirlo significa avere una truffaldina e adulterina vocazione. Capisco che è difficile resistere a una mattina di primavera, soprattutto se arriva una mail con questa intestazione. Infedeltà, libertà, voglie clandestine, desideri, fantasie? Nulla di che, premetto, dello stesso filone di messaggio che millantano prodigiosi guadagni o mirabolanti sviluppi virili. Di solito è robetta che finisce nella casella spam e nemmeno nessuno fa più la fatica di leggere di cosa si tratti.

Devo dire che è molto difficile esternare il proprio pensiero per quello che riguarda l'universo femminile. Ci sono sempre donne che comunque ti attaccano per il solo fatto che tu uomo, quindi maschio, e ti dicono: ah, finalmente hai rivelato il maschio che emerge in te, come se fosse una sorta di colpa rivelare il maschio che è in sé. Tento di reprimerlo il più possibile, lo tengo nascosto, quasi un fanciullino inerme, lo tengo inchiavardato nel profondo delle mie espressioni, dei miei pensieri, ma ogni tanto timidamente si porge il capino, non soltanto quello, fuori dal mio pensare, e si manifesta per il suo diritto di esistenza. Beh, queste donne molte volte non accettano che uno faccia apprezzamenti di tipo estetico sulle donne, come se fosse qualcosa di limitativo. Le donne non possono essere giudicate per il loro fatto estetico, perché è semplicemente maschilismo, puro maschilismo, devalutarle per il loro cervello. Ma perché così? Perché il cervello deve avere un peso specifico superiore a quello che ha magari altre parti organiche che compongono la femminilità? Perché una donna bella deve essere considerata non per quanto sia bella, ma bisogna guardare dentro, investigare, scandagliare, fare delle necroscopie, delle introspezioni, vedere se è anche intelligente? Perché se non parli della sua intelligenza non puoi parlare della sua bellezza. Ecco, io mi arrovellavo su questo tipo di pensieri proprio perché ho davanti la lettera d'amore non corrisposto, vilipeso, martoriato, che l'ennesima donna mi scrive, che probabilmente questo terribile, detestabile maschio che viaggia in treno, rapace e vorace di fantasie e confidenze femminili, e al termine del suo viaggio paventa, millanta, inganna sul fatto che possa esserci una donna ad aspettarlo, in realtà non fa altro che essere il confidente, lo scrutatore, il ladro delle confidenze di tante donne. Beh, questa donna mi pone un problema molto pratico, molto concreto, riducibile in una classica formula: ognuno fa quello che gli piace, se ti piace qualcuno piaccia, devi fargli piacere quello che a lui piace. Ma in realtà, visto che non posso far trapelare il maschio infame che in me alligna, le darò possibilità di parola e cercherò un'articolata maniera di risponderle. Caro Gianluca, per una donna come me, il vantaggio di poter raccontare ad un uomo i fatti propri è indubbiamente un punto di vista diverso e non accomodante, anche se non so quanto prenderò sul serio la tua risposta, a volte la fai troppo facile. Ma nel mio caso mi serve proprio un parere maschile, ma intendiamoci, non maschilista. Ho sentito che tempo fa parlavi in radio dei tacchi, croce e delizia di noi donne. Ecco, la mia vicenda rappresenta una variante sul tema. Ho 29 anni e sono sempre stata attratta da uomini che spesso non facevano impazzire le altre donne o le mie amiche, perché a me dell'aspetto fisico di un uomo, al di là di casi estremi, interessa solo fino ad un certo punto. Per me conta la testa, nonostante il mio aspetto fisico sia tutt'altro che quello di una mesta bibliotecaria. Ho imparato nel tempo a schivare sguardi, battute e avance di maschi prestanti che pensano di fare colpo con il solito apprezzamento accompagnato dal sorriso. 3 mesi fa ho avuto l'occasione di conoscere per un lavoro su una traduzione un uomo più grande di me di 8 anni e che nel giro di qualche incontro mi ha fatto invaghire. È acuto, non banale, con quelle zone d'ombra che alla fine danno fascino. Soprattutto mi è capita subito, o almeno ha intuitivamente colto di me molte cose che altri non vedono anche dopo anni. Al terzo incontro siamo passati ai fatti. Io ero a casa sua e dopo il bacio e i primi contatti ha cominciato a sfilarmi gli indumenti, ma ha volutamente lasciato che tenessi le mie scarpe coi tacchi. La cosa non mi è affatto dispiaciuta, ma la volta successiva al telefono, quando mi ha chiesto di rivedermi, ha specificato che avrebbe voluto rifarlo con lo stesso abbigliamento. Tra l'altro lui, la prima volta, non si era praticamente spogliato, cosa che un po' mi aveva lasciata perplessa. Senza entrare ulteriormente in altri dettagli, ciò che mi interessa raccontarti è che in sostanza quest'uomo, ogni volta che fa l'amore con me, esige un certo abbigliamento e soprattutto che metta sempre le scarpe coi tacchi e non le tolga mai. Ed ecco il punto. La signora ha trovato un maschio con una parafilia ben definita. Non è una malattia, è una sua predisposizione. Lui s'attizza, a lui prende consistenza per la necessaria pratica di accoppiamento ciò che in lui viene tecnicamente chiamato corpo cavernoso, se giace con una donna che ha i tacchi indosso, che si mette delle scarpe con i tacchi a spillo. Volete fargliene una colpa? Se questo è il suo fantasma amoroso, che colpa ne ha lui? Se questo a lui porta l'estasi, perché non compiacerlo? Perché la donna si sente oggetto. Ma quanto noi uomini dobbiamo millantare del nostro essere uomini per essere accettati, accettabili, considerati oggetto del desiderio? Ah, mi piace tanto il tuo cervello. E forza, dai, studia, impara citazioni, cerca di affinare la tua sensibilità, perché il tuo cervello sia molto più avanti rispetto al tuo pisello, che in realtà è l'unica cosa in quel momento vorresti compiacere. Beh, questa donna si sente in qualche maniera forse limitata dal fatto che questo signore, magari un po' monotono, ogni tanto potrebbe cambiare, ha avuto probabilmente il suo imprinting amoroso con una donna dotata di tacchi, o perlomeno consuma tutta la sua, il suo preludio onirico rispetto al rapporto sessuale sfogliando siti internet o riviste in cui ci sono donne che mettono i tacchi sempre anche a letto. Non si capisce poi l'igiene di quelle lenzuola, perché le scarpe camminando per strada calpestano di tutto e uno si porta anche tutte le cacche di cane che ha pestato lungo il marciapiede nel letto. Questo è l'unico punto che potrebbe dar fastidio, ma in realtà probabilmente lei potrebbe acquistarsi delle scarpe nuove di zecca di negozio e indossarle soltanto quando va a letto, come altre indossano il pigiamino, come altre prendono la borsa e l'acqua calda, come altre si mettono la cuffia in testa per non rovinarsi i capelli. E invece no, questa sorta di sordido desiderio maschile vessatorio è per lei un limite. Ripeto, la cosa inizialmente non mi è dispiaciuta, ma ora, a distanza di quasi 3 mesi, comincia francamente un po' a stufarmi. Non perché io sia bigotta, anzi, è esattamente il contrario. Non mi piace questa unilateralità nell'assecondare il proprio immaginario erotico, perché ormai è chiaro che nel nostro modo di vivere il sesso c'è spazio solo per il suo, di immaginario. Ho sempre più l'impressione di essere diventata, o di esserlo sempre stata, poco più che un semplice supporto femminile necessario a lui per dare concretezza alle sue fantasie erotiche. Ma se è così, mi chiedo, se per lui la presenza delle scarpe è decisiva, nel momento in cui facciamo sesso, che ci sia io o un'altra donna, che differenza gli fa? Non pretendo di avere il dominio totale del suo desiderio, ma vorrei che lui scegliesse me prima di tutto, e poi i miei tacchi, e non viceversa. Dici che sbaglio? Vorrei sapere da te se davvero il desiderio maschile si possa così tanto legare a una sola modalità di esecuzione, diciamo così. Fatto sta che la passione in me sta un po' scemando e ora sono indecisa se dirglielo chiaramente o provare una volta a imporgli di farlo a modo mio e vedere se il maschio che è in lui ne uscirà inesorabilmente e definitivamente sminuito ai miei occhi. Non ho ben capito la domanda che mi pone la mia amica. È turbata, annichilita o semplicemente annoiata della stessa pantomima di lei che si veste da zoccola per farlo contento, tanto alla fine è questa, perché la donna si mette i tacchi, perché rientra in una sorta di stereotipo onirico in cui la donna con autoreggenti, biancheria nera e tacchi a spillo è una donna che di professione mette questi orpelli per compiacere l'uomo. Benissimo, se la cosa l'annoia, se la cosa non la coinvolge, se la cosa a lei non attizza, ma probabilmente all'inizio l'attizzava, perché sennò non l'avrebbe fatto nemmeno dal primo giorno. È difficile una donna faccia qualcosa che va contro il suo estro. Per un certo periodo l'ha divertita, poi si aspettava che lui cambiasse. Dice, beh, oggi togliti i tacchi e mettiti un elmo da antico romano, oggi togliti i tacchi e mettiti gli anfibi d'alpino, oggi togliti i tacchi e mettiti una corazza da samurai giapponese. E invece no, lui sempre con i tacchi, lei si è stufata, anche per probabilmente sarebbe aspettata che lui regalasse a lei magari un bel sandaletto firmato o una bella pianella ingioiellata. E invece no. Lei mi dice, voglio cambiare io. Sì, però non mi mette la sua proposta. Qual è la proposta della signora? Non si capisce, non c'è alternativa. Non le piacciono i tacchi, togli i tacchi. E beh, cosa proponi te? Benissimo, cambiamo gioco. Ma dimmi qual è il tuo gioco. Le donne sono sempre molto restie a mettere sul tavolo le loro carte, a rivelare la loro fantasia, a dire qual è la cosa che a loro attizza, perché probabilmente sono cose che coinvolgerebbero altre parti in causa che non vogliono in quel momento dichiarare, o sono delle cose talmente semplici o talmente banali o talmente tristanzuole che l'uomo non troverebbe estro in questo, almeno loro pensano, o sono cose talmente oltre l'immaginario maschile che hanno il timore che il rapporto ne venga sovrastato, risucchiato, bruciato. Almeno provi, faccia la sua proposta. Voglio che da domani tu ti metti uno spazzolino per spolverare tra le natiche e con questo tu mi possegga, perché questo mi attizza molto. Oppure voglio da domani tutti i vernici a strisce gialle, rosse, verdi e blu e con questo tu ti accoppi con me. Voglio che da domani tu ti rapi a zero, tu ti metta una parrucca, o tu ti vesta da odalisca, o tu ti vesta in tuta di cuoio e borchi. inventati qualcosa, poni l'alternativa. Finché non ci sarà l'alternativa, la prassi riempirà ogni vostro spazio amoroso. I fall down dead, she never see the tears.